24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Io vi ricordo il detto cinese che Silvio cita e che io ho adottato come programma della mia candidatura a premier. Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono e poi vinci. Vabbè. Ma io lo adoro Gianfranco Rotondi, perché lo inviterei tutte le mattine, me lo metterei sul comodino, mi farei regalare la massima del giorno da Gianfranco Rotondi. Avete sentito il detto cinese ieri ad Agorà. Allora, sono le 6:34 minuti, buongiorno, è venerdì, si conclude la settimana di 24 mattino, c'è la nostra Miriam Lucchetti in redazione, c'è il nostro alpino Peter Bescapè che con i suoi bombardini e le accise sugli alcolici è il primo finanziatore della scuola italiana. E allora si apra per l'ultimo giorno della settimana il Parlamento, evviva Nicole Minetti! Come sempre. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Sì, tu palle, continui, però. Che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della Minetti. Vabbè. Noi non lo vogliamo dalla Minetti. Brutto cretino di un Milan. Allora, eccoci qua. Voglio salutare subito Vincino, eccoci qua, eccoci. E poi un graditissimo ritorno. Sai chi c'è con noi, Vincino? No. Dimmi. Vladimir Luxuria, buongiorno, ben ritrovata, buongiorno. Eccoci qua, Vladimir, buongiorno. Eccoci, allora, mi sento un po' raffreddata, Vladimir, no? Un po'. Un pochino. Allora, oggi ci sono degli articoli sui giornali, quante cose che vi devo proporre. La prima è una, Vincino, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Amato. Eccolo lì, vedi subito, ce l'ha fatta. Finalmente gli abbiamo trovato un lavoro, perché ne aveva poche pensioni, poco lavoro, poco. Giuliano Amato, giudice della Corte Costituzionale. Cioè, vuoi sapere lo stipendio da giudice? 350. 403.840. Tre assistenti, tre segretarie, telefonino, computer, auto blu. Mamma mia, ma era l'ultima cosa secondo me che Napolitano doveva fare, l'aveva promesso, Giuliano. L'ultima cosa è via, ora può tornarsene. I senatori e Giuliano ha messo a posto tutti i suoi vecchi amici, i musicanti, i cosi, tutto, ha fatto tutto. Come i musicanti, Vladimir Luxuria, di qualcosa, i musicanti addirittura. No, Vladimir Luxuria, cosa c'è? C'è qualcosa di scandaloso in questa nomina di Amato, secondo te? Perché per qualcuno sì, per altri invece no, è una persona... Ma è uno di quelli che rappresenta sempre le larghe intese, che rappresenta il punto di unione, che rappresenta quello che non dà fastidio. Visto come il nuovo giudice costituzionale, insomma, fa riflettere molto, cioè quello, perché oggi il Fatto Quotidiano dice era quell'amico di Craxi, quindi Berlusconi, subito si partono le dietrologie, ma soprattutto è un grande tennista. La notizia di Giuliano Amato oggi la pubblicano Corriere e La Stampa ed è questa, carissimi Vincino, carissima Vladimir Luxuria: le intercettazioni quando Giuliano Amato chiamava, per la verità non da solo, Mussa. Ve lo ricordate Mussari, quello del Monte Paschi Sena? Senti un po', Vincino, a un certo punto lo ricorderemo ancora per 20 anni in Italia. Mussari, ma... 7 miliardi. Ah, già è vero che tu c'hai il conto a Monte Paschi. Amato chiama Mussari, mi vergogno a chiedertelo, ma per il nostro torneo di tennis a Orbetello è importante che tu mantenga la sponsorizzazione del Monte Paschi, che mi hanno detto può scendere da 150 a 125 mila euro. Vedi di fare qualcosa, caro Mussari, tranquillo Giuliano, sistemiamo tutto. Eccolo lì, cioè, è un disagio. Giuliano è il rappresentante dell'Italia degli anni 80 che ci ha buttato in questo debito pazzesco, in questa cosa pazzesca. Giuliano è il responsabile di tutto questo, è il simbolo di questo. No, secondo me è uno scandalo enorme, ma non perché era amico di Craxi, anzi quello era una delle poche cose buone della sua vita, è che era amico di Craxi e di cosa, no? Ecco. Poi il fatto, nella sua solita grossezza, come dire, riporta tutto a Craxi, ecco. No, Giuliano è quello che per tanti anni ha fatto tutti i sassi, tu ti sì. ricordi quando era al governo e ci ha levato il non so quanto il 3% come dai, no, dai come conti. No, che raccontò che fu una cosa casuale, no? Che disse l'allora ministro, non mi ricordo, lo guardò al mattino dicendo allora hai sistemato, e il ministro fece un cenno con l'occhio e lui pensò da questo cenno con l'occhio che fosse tutto sistemato e invece il prelievo forzoso era inserito, cioè fu un racconto epocale, cioè che fosse che era stata una cosa per sbaglio, per sbaglio. Vladimir Luxuria, ma vabbè, ma adesso cioè, verrebbe da pensare in un paese normale chi se ne frega di chi è il giudice della Corte Costituzionale? Perché in Italia siamo sempre così dietrologi o facciamo bene? Perché poi alla fine il giudice della Corte Costituzionale è uno molto importante, perché poi ci si appella alla Corte Costituzionale quando si pensa di essere stati vittime di un raggiro, di un'ingiustizia, ci si appella alla Corte Costituzionale, quindi sapere che c'è uno come Di Pietro, uno insomma, che ha tutta la sua storia, la sua amicizia con Craxi. Di Pietro, ma che no, Di Pietro, hai detto Di Pietro, lapsus, Di Pietro, sapere che c'è uno come Di Pietro. D'Amato, assolutamente Amato. D'Amato, per carità. Insomma, voglio dire, D'Amato è stato anche il ministro degli interni quando c'era il governo Prodi, è uno che te lo ritrovi comunque sempre, che ci sia un governo di centrodestra, che ci sia un governo di centrosinistra. È uno di quelli che quando ci sono, diciamo così, periodi come questi, arriva e trova sempre la sua posizione. Ma lui spunta, ma d'altronde poteva essere anche Presidente della Repubblica, poteva essere Premier perché venne tirato sempre fuori, giudice della Corte Costituzionale, pensionato, un po' potevano fare tutto questo, ma, Vincino. Ma lo chiamano la meno cosa in realtà, però guarda che la Corte Costituzionale non serve per il... La Corte Costituzionale è il massimo che stabilisce se una legge è costituzionale o no. Tipo la, tipo la legge Severino. In Italia, tipo la legge Severino, non so, una legge a calma. Era quello a cui mi volevo riferire, sì, soprattutto. Certo. Ma lo chiamano dottor Sottile non a caso, uno che si riesce a infilare ovunque, riesce a infilarsi un po' ovunque. Comunque, a proposito di questo, ho il vostro pronostico della telenovela giunta alla puntata 7490 due di Silvio Berlusconi. Ah no, prima però vi voglio far sentire questo, il giudizio pacato, il giudizio molto pacato che della vicenda Amato dà l'onorevole Sibilia del Movimento 5 Stelle. Sentite il pacato Sibilia. Giuliano Amato rappresenta degnamente il disgusto, l'indecenza, l'obbrobrio, l'orrore, il ribrezzo perpetrato negli anni dalla casta politica italiana. Vincino, e poi una volta siamo d'accordo. Pure la mafia, la camorra, l'andrangheta e pure anche gli puzzano i piedi, non lo so, cioè, che deve fare. Addirittura mi sembra un po' troppo questa, Vincino. No, dopo che ha giocato 2 ore a tennis senza le calze, magari. Infatti, nel torneo di Orbetello dove il Monte Paschi Siena sponsorizzava 150. Ragazzi, ma 150.000 euro per il torneo di Orbetello, ma vi rendete conto? Ma cioè, non è gli US Open, cioè il è la normalità d'Italia. Il torneo di Orbetello, che poi il dramma era che da 150.000 scendeva a 125 e Amato dice non ce la facciamo comunque, con soli 125.000 a fare il torneo di tennis di Orbetello. Ma poi non è che c'è solo Musseri, c'è pure l'Enel, l'Eni, coso, quell'altro, la SNAV, il PIC, gli altri 300 dove c'ha uomini, amici che hanno qualche cosa a lui. Sponsorizzazione. Allora vi devo chiedere il pronostico, Silvio Berlusconi, di questa telenovela. Sì. Vladimir, come finirà? Come finirà secondo te questa vicenda? Posso fare una domanda? Secondo voi è possibile chiedere il voto con scrutinio segreto? A che cosa? All'assemblea, al Senato? No, una volta. Penso una volta, proprio di sì. Diciamo, siamo uscito fuori, diciamo, il giorno in cui bisognerà votare dalla giunta, certo, per la decadenza, eccetera. È possibile? Credo proprio di sì. È doveroso per Vincino. Perché la questione è personale e coscienza, mica è un voto di partito quello là. Me lo chiedo perché nel caso dello scrutinio segreto, tutto può succedere. Certo, come no. È successo, diciamo, hanno accoltellato Prodi. È possibile tutto. Ma è possibilissimo. Ma io sono convinto che il voto poi sia anche perché tutti pensano la giunta deciderà, ma poi gli italiani non lo sanno. Si deve pronunciare l'aula al Senato, non è che deve essere non è che la giunta decide. È uno scandalo. Addirittura per vincere deve essere segreto, certo, se no è uno scandalo. È obbligatorio, questa è una tipica questione di coscienza. Obbligatorio, non lo so, perché uno la coscienza in segreto la cambia, non ho capito. No, la coscienza non ha coercizioni, questo è il punto. Ah, non ha coercizioni. Se io sono di 5 Stelle e magari voglio votare contro la decadenza, non lo posso fare col voto coso perché mi vincono. Certo. Certo. Col voto segreto sono libero di esprimere i miei pensieri. Ho capito, ma è una delle norme base della democrazia. Libero, però anche, come dire, io sono più malizioso. Libero, ma Vladimir, che aggettivo usiamo? Anche, come dire, adesso non dico comprabile, ma insomma, come no. Ma diciamo così, sempre nell'onda di tutto è giustificabile pur di mantenere in piedi questo governo. Alla fine magari anche qualcuno del PD potrebbe essere tentato a votare contro la decadenza dei come però qualcuno del PDL può essere tentato a votare. Ma qualcuno di Selle, qualcuno di 5 Stelle, sì, i senatori nella loro entità sono di tutti i partiti, sono liberi. Sì. Comunque l'articolo principe. Cioè, il problema è questo, noi per andare contro Berlusconi perdiamo i principi minimi della democrazia. Oh, hai capito? Vladimir. Il voto segreto, è uno scandalo. Ma che scandalo il voto segreto? Il voto segreto è doveroso. Doveroso, attentatrice della democrazia, Vladimir Lussuria. Come parlamentare vergogna. Senza vincolo di mandato, è una delle cose centrali, più belle della Costituzione. Questa cosa. Però, ho chiesto solo nei regolamenti della Camera se era possibile, se secondo voi era fantascienza. No, secondo me sicuramente sarà segreto, altro che fantascienza. Ma l'articolo al Senato senatore a vita. Allora, resta senatore a vita, non nel senso di fatto a vita, ma senatore a vita. L'articolo del giorno su Berlusconi di Tommaso Labate sul Corriere della Sera. Berlusconi sta vivendo il vero dramma, che è l'insonnia, e quindi prende il cagnolino Dudù e fa delle grandi passeggiate notturne nel suo immenso parco. Berlusconi di Dudù dice: è la mia unica fonte di gioia. E sapete sapete da che cosa lo si capisce? Dal fatto che gli ha dato il permesso di fare i suoi bisogni come, quando e soprattutto dove vuole in casa. C'è Dudù che gli caga nel soggiorno. Che meraviglia. Un grande motto comunista. Un grande motto comunista, ciascuno secondo i suoi bisogni. Abbiamo trovato finalmente chi potrà sostituire Berlusconi nella leadership. È vero, PDL, come disse Mao Zedong, credo a ciascuno secondo i propri bisogni, quelli di Dudù. Sì. Ma dai, ma come si fa a scrivere? Altro che Sant'Ancheo Alfano, abbiamo trovato le regole. Tommaso Labate però, eh. Vabbè, Tommaso Labate. Ho capito, ma uno che parla con il cane di Berlusconi, Ma non è che parla col cane. Io ti stimo Tommaso, anzi sono sicuro di entrare direttore del Corriere della Sera tra 6 mesi, sì, perché lui è entrato 3 mesi fa e ha preso la prima pagina, tutto, certo, a un certo punto scrive tutto ha pure scalzato, io sono felice per ha pure scalzato Michele Ainis, che è come possibile direttore del Corriere. Però andiamo. Questa cosa qua che parla con il cane, non è che parla con il cane, andiamo. Con chi parla? No, non lo so, avrà preso informazioni. Ma no, avrà preso informazioni dal maggiordomo di casa Berlusconi. 24 mattino. La cancellieri ha confermato la cessura di alcuni tribunali minori. Finalmente un ministro con le palle ed è una donna. Bene. Visto che la provvidenza ci ha regalato un papa così buono, altruista, generoso, umano, non sarebbe il caso di cominciare a battere cassa per farci dare un po' qualche soldino per l'IMU che la Chiesa non paga? È tutti stupiti che il Papa abbia risposto con una lettera agli articoli di Scalfari. Ma che ci vuole? E leggerli gli articoli di Scalfari fino alla fine è un gesto di vera santità. Senti, caro Milan, vorrei, tramite vostro, mandare un messaggio a Berlusconi. Per favore, dimettiti. Farai un gesto per il bene dell'Italia e tutti ti saranno grati. Salve, buongiorno. Volevo dire che io mi sono proprio rotta e strarotta di stare a sentire tutte queste discussioni e tirare la cinghia per le faccende di Silvio Berlusconi. Ma questa persona si ritiene più onnipotente di Gesù Cristo? Ma anche Gesù Cristo è stato giudicato e condannato. Adesso veramente bisogna che la facciano finita, perché non ne possiamo veramente più. Io vorrei fare un appello a Papa Francesco. Per piacere, Papa Francesco, c'è bisogno di te al governo. I saggi che vanno all'hotel, i senatori a vita. Io sono vecchia, non posso più fare niente, ma i giovani, Papa Francesco, non li autorizzeresti a prendere la fiamma ossidrica e andare fuori dal Parlamento? Aiutaci, aiutaci, Papa Francesco. Caro Vincino, cara Vladimir Luxuria, no, questa qua, c'è il rischio che Papa Francesco Vladimir prenda sul serio questa signora, poi faccia un appello, attenzione perché a non invocarlo, perché che ne pensi tra l'altro di questa lettera, tu che sicuramente non hai un approccio molto amichevole, credo, con le cose vaticane. Che ne pensi di questo Papa, il fatto che scriva, si firmi Francesco senza nessun altro appellativo su Repubblica, parli di fede con i non credenti, che ne pensi? No, a me piace molto questo linguaggio diretto, questo aver creato grossi filtri, steccati tra lui e gli altri, anche diciamo questo suo telefonare anche a vittime di ingiustizia, insomma credo che sia invece una cosa molto positiva. Invece mi ha molto impressionato la segreteria telefonica di quella signora che diceva, insomma, che paragonava Berlusconi a Gesù. Cioè, dice anche già, Gesù. Già l'ha fatto lui da solo, dicendo che era un unto del Signore. Però oddio, mi è venuta subito in mente una cosa, che è risorto poi alla fine di Gesù, quindi non lo so. A un certo punto ritroveremo anche Berlusconi che risorge da qualche parte. Vabbè. Comunque la questione è, Vincino, per chiudere la questione è... Hai risorto 4 volte, dopo 4 sconfitte pazzesche, non è la cosa. Padre Francesco è una disgrazia immane, lui crede che l'Italia sia una grande città del Vaticano, no? In cui lui in questa Italia può fare tutto quello che vuole, riempirla di cose, fare là, andare giù, sotto, quell'altro, insomma è il suo, la sua piccola città del Vaticano è l'Italia. Ma che vuol dire? Ma uno è uno che voglio dire, vicino. Pensa che io quando l'ho visto appena si è affacciato, no, su San Pietro dopo la nomina, ho detto: ma mi sembra impacciato, ce la farà uno così? È proprio la previsione più disastrosa della storia. Invece uno che prende la Renault 4, va a contromano, senza cintura, è uno che parla alle persone, il contatto con le persone, che scrive su Repubblica e si firma Francesco. Parlo con normale, E vabbè, quello solo che vuole vorrei che non cambiasse l'Italia per una città del Vaticano, questo è il punto. Stia, come dire, No, vabbè, il fatto quelle due persone a telefono che dicono tutte e due: Papa Francesco, prendi il governo, spazza da quell'altro. Questo qua è un disastro immane, proprio ideologico. Un disastro immane. Sì, però almeno politica e chiesa teniamoli divisi. Ma che politica e chiesa teniamoli divisi? Però almeno così è quello che era favorevole alle Malvinas. Però almeno così almeno diventa più ufficiale, più sincero, visto che si parla spesso di laicità, che non è un principio, come dire, sempre rispettato nel nostro paese. Almeno a questo punto, invece di rivolgersi a letto a Berlusconi, uno almeno si rivolge direttamente a Papa Francesco senza intermediari, come dire, la cosa Portavia più l'abbiamo diretta, fatta, no? Ma infatti, ma Vincino deve criticare sempre tutto. Come sta il busto di Andreotti? Sta bene, è preoccupato pure lui, devo dire, per questa cosa qua di Papa Francesco. Papa Francesco, l'hai visto un po' sobbalzare? Poi gli ha cacato un uccello sopra, per cui è anche un po' arrabbiato. C'è una macchietta sopra, ora devo andarla a pulire. Vabbè, eccoci qua. Ma se lo tieni all'aperto, sono cose che capitano, insomma, che se lo tieni lì. Comunque così, la forza invece è Putin, che ha stravinto sul gas, nessuno lo poteva battere. Ah, è vero, sulla Siria. Aspetta, no, un minuto, voglio chiedere a Vladimir Luxuria una cosa. Allora, questa vicenda di genitori A e genitori B, da chiamare invece che mamma e papà, che sono tra l'altro del partito di cui tu hai fatto parte, Sel, ma possiamo dire che è una cavolata assurda? Lo puoi dire? No, è una cavolata come è stato riportato, perché

quando e soprattutto dove vuole all'interno della casa, speriamo non sul sofà o sul divano. E poi Dudu ha preso l'abitudine a dormirgli addosso al cavaliere, quindi non con Francesca Pascale, col cane della Pascale, ma questo lo fa sempre di notte. Oppure Berlusconi ogni tanto vede la TV, ma non la guarda di notte, la vede così con sguardo assente, come quella volta nel giugno 2008 quando telefonò al numero in sovraimpressione per ordinare un set di coltelli. La TV non la guardo, la vedo così, sguardo vitreo. Ma Tommaso l'Abate! Ma insomma, questi sono articoli sul cane Dudu che può fare i bisogni come e soprattutto dove vuole nella casa di Silvio Berlusconi. Amici del Corriere, Tommaso l'Abate, la carta costa, attenzione. 24 mattino. Sono le 8:16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, intanto di cosa vogliamo parlare adesso? Di finanziamento pubblico ai partiti, sì, ebbene sì, quel finanziamento che gli italiani cacciarono dalla porta per referendum e si sono ritrovati aumentato negli anni e inserito dalla finestra. Su quel finanziamento scrive oggi il Corriere della Sera, per esempio si fa il gioco dell'oca, lo scrive Sergio Rizzo, ma tutti i giornali puntano a parlare di Melina. Perché? Perché questo finanziamento, un disegno di legge governativo che era stato incardinato, doveva essere approvato entro l'estate, poi è stato rinviato entro settembre, ora ritorna in commissione, nella commissione affari costituzionali alla Camera. Il cui presidente è qui con noi, è l'onorevole Francesco Paolo Sisto, il Popolo della Libertà, lo saluto, grazie presidente e buongiorno. No, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, non mi dica che non è un passo indietro e non mi dica che non è una melina come la dipingono tutti i giornali. Io come posso dire, smentisco radicalmente che si tratti di un passo indietro e di una melina, e cerco di essere più chiaro. Si tratta di una legge estremamente importante, forse la più importante, perché traccia il percorso della democrazia ai partiti. Sono protetti dalla Costituzione, articolo 49 e l'articolo 3, quindi non stiamo parlando di una cosa qualsiasi, parliamo del futuro della democrazia. Detto questo, l'abbandono del finanziamento pubblico in favore di quello privato comporta ovviamente l'adeguamento a modelli diversi, sì. Il modello del Partito Democratico, il modello del Popolo della Libertà, il modello di Scelta Civica e chi più ne ha più ne metta. È indubbio che per coniare un modello che sia, come posso dire, capace di raccogliere tutte le varie esigenze, tutte le varie situazioni che si prospettano nella storia di ciascun partito, il lavoro non è semplice. Questo sì, però ha sentito che è evidente, mi faccia completare, sì. È evidente che siamo di fronte a diverse posizioni. Questo è chiaro, ci sono diversi emendamenti. Che hanno bisogno ovviamente di un dibattito parlamentare di non poca rilevanza e soprattutto anche di un approfondimento in commissione. Che cosa è accaduto? Storia. Che fra i due partiti di governo, PDL e PD, non c'è intesa su punti cardine di questa legge. Il tetto, per esempio, la protezione da rischi per il privato di incorrere in reati con col mero finanziamento privato, ci sono due o tre passaggi nodali che sono sostanzialmente e che quindi vanno approfonditi in commissione, però lei la capisce no, un ma po'. No, ma irrisolti perché c'è una differenza. Ah, chiaro, c'è una divergenza di opinioni, però se questa divergenza non si appiana, voglio dire, allora un provvedimento non potrà mai, per assioma o per assurdo, non potrebbe mai essere approvato. E il Premier Letta ha parlato, attenzione, arriva il decreto a questo punto. No, io faccio un caso diverso, cioè che nel senso che le forzature in questa materia sono, diciamo, impossibili, nel senso che è indispensabile che ci sia un'intesa su un modello capace di raccogliere tutte le esigenze. Cioè, quello che voglio dire è che la Commissione, indubbiamente, che è una Commissione che lavora più di tutte le altre commissioni, e me ne accollo alla responsabilità con notturne, eccetera, non ha peccato di impegno. Quello che è venuto meno è proprio la possibilità di un'intesa tra le due grandi forze. E questo l'abbiamo capito. Il PD, io questo l'ho scritto e lo ribadisco, ma nessuno se ne abbia male, purtroppo la verità e va ribadita, non ha inteso portare in aula come testo base il testo del governo. Però presidente Sisto, mi perdoni, lei dice e nessuno mette in dubbio, lo sappiamo, la commissione affari costituzionali si lavora e magari in un consesso più ristretto si riescono a appianare queste cose, ma se non si appianano che succede? Cioè, se il PD rimane sulle sue posizioni, il PDL sulle sue posizioni, questo provvedimento va a morire dal punto di vista politico. Questo provvedimento andrà in aula martedì. se concluso in commissione, quindi che ci sia una volontà da parte di tutti i partiti. Noi l'abbiamo detto anche ieri in aula, noi siamo disponibili a votare il testo del governo, il PD no. Questa è la verità di fondo. Quindi se il testo del governo fosse portato all'aula, il PDL è pronto a votarlo nella sua integralità. Il Partito Democratico, certe fasce del Partito Democratico invece non sono disponibili per una serie di ragioni. È dovere, secondo me, del Parlamento cercare di in tempi rapidissimi valutare se si può sanare questa differenza tra forze di maggioranza. Se non sarà possibile, lo porteremo in aula, sarà votato, quello che accadrà accadrà, il governo si assumerà le sue responsabilità, perché si tratterà di sconfessare un testo che viene dal governo da parte della stessa forza politica che lo compone. E questo si vedrà più avanti. Senta, Presidente Sisto, e questo sì, lei non si rende conto, lei come rappresentante in questo caso delle istituzioni, che su questo tema vi giocate molta della credibilità e che per qualcuno è già scarsa, che il cittadino comune è disposto ancora a concedere alla classe politica su un tema così delicato? Io sono convinto di una cosa, che le leggi che si scrivono sulla piazza e sul consenso, diciamo, emotivo dei mass media sono le peggiori. Il Parlamento deve cercare di ragionare, di emettere provvedimenti che siano, come posso dire, corretti sul piano della qualità e anche dell'efficacia, e se questo necessita di una maggiore elaborazione nei meccanismi della democrazia parlamentare, ben vengano. Cioè, la legge sul finanziamento è una legge, ripeto, fondamentale. Se c'è una legge su cui bisogna ben pensare è proprio questa, perché le immagini, se nel finanziamento non più pubblico ma privato si annidasse per esempio la scomparsa dei piccoli partiti, e sarebbe gravissimo. Sì. Cioè, dobbiamo pensare anche che non è che la democrazia vive di PD e PDL o altri, vive anche di piccoli partiti che crescono, che hanno bisogno comunque di avere un loro sostentamento. Cioè, sì, ma sa, ci sono persone che pensano che debba essere cancellato del tutto, come è stato cancellato, ma non vogliamo rifare la storia del referendum. Ma cancellato del tutto, nel senso che se un privato vuole dare 100 euro al suo partito, questo sì, certo, cancellato dal punto di vista pubblico. Cancellato del tutto mi sembra un po' impossibile. No, del tutto dal punto di vista pubblico, poi i contributi privati sono ben accesi. Il meccanismo che il governo ha studiato è di progressivo, diciamo così, progressiva cancellazione del pubblico verso il privato. Questo è il, diciamo così, il progetto di massima del governo. È sostanzialmente un progetto che mi sembra in linea anche con la scelta del referendario. Il problema è che, per esempio, ne dico uno sul tetto, no? Allora, che è uno dei nodi. Il PD vuol mettere un tetto massimo al finanziamento privato, il PDL non è d'accordo. Secondo lei, lei che ne pensa? Un tetto forse sarebbe, non si rischierebbe di mettere un partito ostaggio di un grande magnate che può dare tot milioni di euro? Io dico soltanto che ogni partito deve avere la garanzia di sopravvivenza. Lasciare libertà di dazione nei minimi o nei massimi a me non sembra affatto un insulto alla Costituzione, e del resto il testo del governo non pone il tetto, per dirlo, il testo che viene dal governo Letta, dai ministri Franceschini e Quagliarello, PD e PDL, non pone il tetto, quindi voglio dirle, non è che siamo di fronte ad una... Poi d'altronde mi chiedo, l'importante è che ciascuno possa avere un range di, come posso dire, libertà di azione. Non comprendo mettere questo coperchio a tutti i costi a che cosa serve? Può essere un modo di limitare il diritto al per esempio per Presidente Sisto, e c'è anche un altro emendamento, oggi lo racconta il Fatto Quotidiano, dell'onorevole Boccadutri, che tra l'altro non è una persona qualunque, è il tesoriere di SEL, che voleva, e tra l'altro un ottimo collega, certo, no, ma l'abbiamo avuto ospite anche questi microfoni. ieri è stato molto equilibrato anche nelle dichiarazioni in commissione, sul rientro in commissione, perché devo dirlo per gli ascoltatori, il testo è tornato in commissione anche perché, proprio per questa difficoltà del Partito Democratico di portare il testo del governo in aula, sono stato costretto a fare io il relatore tecnico, ma non vedo l'ora di restituire ai relatori originari Fiano e Gelmini la responsabilità. Non vede l'ora di disfarsene, la metto ma come non, battuta. No, ma perché io sono un relatore tecnico, però deve essere critico, no? Deve poter dialogare con l'altra forza per poter trovare un'intesa. Assolutamente. L'onorevole Boccadutri propone di escludere da potenziali finanziatori condannati in via definitiva per corruzione, concussione o frode fiscale. È stata subito vista come una norma contro Silvio Berlusconi dopo questa condanna. Però non le sembra una cosa abbastanza di buon senso, cioè che una persona che ha subito una condanna non finanzi un partito? Guardi, io personalmente esprimo innanzitutto un giudizio tecnico e dico che non comprendo qual è il rapporto fra finanziare un partito in modo trasparente, perché i meccanismi, ciò che noi cerchiamo di potenziare, sì, è il controllo sul finanziamento, cioè quello che conta è che il finanziamento sia assolutamente lineare, trasparente e controllato, cioè che non ci siano chance di finanziamenti che non siano, come posso dire, tracciabili, usiamo questo termine. Beh, io non capisco perché, quale sia il rapporto fra un errore giudiziario che può essere stato commesso da un soggetto e la libertà poi successiva di poter finanziare un partito. Ma mi scusi, se uno ha una condanna per corruzione, cosa fa? Poi finanzia un partito? Mi sembra più un frutto dei tempi che una scelta in linea col rapporto fra sanzione e... Allora, se così fosse, un condannato per corruzione non può, per esempio, finanziare un ente, non può finanziare una fondazione, e forse non sarebbe, può finanziare un, cioè, forse sarebbe una, meglio una, di una che sia così, scusi, costituzionalmente illegittimo. Però non è, forse non sarebbe tutto, male. Ma... Guardi che lei da un'opinione che non sarebbe forse male, cioè se una persona ha corrotto una persona e poi finanzia qualcuno, si può pensare che potrà rifarlo, non lo so. Credo di avere un interlocutore, diciamo così, qualificatissimo. Le dico, le sembra possibile che il fatto che io possa aver subito una condanna 10 anni fa non mi consente oggi di finanziare un ente, di finanziare una fondazione, di finanziare un'associazione? Cioè, a me sembra uno sproposito costituzionale, laddove la responsabilità penale, anche accertata, comporta un giudizio di responsabilità solo su sentenza definitiva su quel fatto. Poi se ci sono delle altre conseguenze, devono essere non solo anticipate e previste, ma connesse con quella responsabilità. Senta, è chiaro, l'accesso per esempio a pubblici uffici è giusto che possa essere negato a soggetti che hanno subito un certo trattamento per certe responsabilità. Allora, Presidente... ma poter finanziare una onlus... No, ma è chiaro, è la sua posizione una, è molto una chiara. Una follia pensare che un soggetto condannato non possa finanziare una onlus, ma da un punto di vista costituzionale. Poi la politica è capace di scelte di opportunità, è capace di scelte... Sì, di però lei la sua posizione è chiara, costituzionalmente non è sostenibile. Presidente, Sisto, io nel doverla salutare la ringrazio che ho la pubblicità, mi dica sinceramente, dovesse giocare un euro in questo momento, o scommettere un euro, puntare sull'approvazione di questo disegno di legge governativo, lei lo metterebbe più sul sì o sul... Lei mi ha fatto una domanda precisa, l'approvazione del disegno di legge governativo. Sì. Io mi auguro che sia approvato il testo del governo per 3 ragioni. La prima perché è un testo comunque equilibrato sul piano del rispetto di tutte le esigenze. Il secondo perché abbiamo bisogno di una legge sul finanziamento e quindi con un grande senso di responsabilità dovremmo tutti puntare innanzitutto al risultato. Terzo perché sarebbe un'iniezione di fiducia al governo Letta e in questo momento al Paese. Ne ha bisogno. Questo se lo augura, ma quell'euro dove lo punta? Sul sì o sul no? Vede 20 sul di... Sì. Sul sì, guardi, sul sì. Vede 20 di ottimismo. Questa è una legge che si deve fare di riffa o di raffa, se mi fa passare questa espressione mega tecnica. Una legge che si deve molto, fare. Molto che noi la faremo. Mi auguro soltanto che si faccia una buona legge, molti italiani si augurerebbero addirittura di cancellare il finanziamento pubblico ai partiti, ma queste sono opinioni. Sono cancellato e da questa legge è cancellato. Voglio che sia chiaro a tutti gli Sì, però è una cosa più ampia che adesso non approfondiamo, ci sono sgravi fiscali comunque, quindi sono questioni, non è una cancellazione tu cure in maniera totale. Ma perché lo sgravio fiscale non è perfettamente consentito in tanti altri settori? Assolutamente, però alcuni propongono uno sgravio fiscale più alto per i partiti di chi per esempio dà dei soldi al finanziamento per la ricerca sul cancro. Forse ci sono degli squilibri su questo. Comunque, Presidente Sisto, torneremo su questo tema. Intanto le faccio in bocca al lupo anche per il suo lavoro, che non sarà sicuramente delicato, e grazie per essere stato con noi. Lo facciamo con passione. Grazie a lei. Grazie, Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Francesco Paolo Sisto. Noi, dopo la pubblicità e il meteo, andremo a capire cosa sta per succedere a Cantù. E voi dite, ma che succede a Cantù? A Cantù succede che da oggi e domani, per 3 giorni, insomma nel weekend, ci sarà una festa organizzata da Forza Nuova. Una festa che è stata molto dibattuta. A Milano hanno negato questa autorizzazione perché arriveranno anche una serie di organizzazioni considerate, per esempio l'Associazione Partigiani Italiani, espressioni del neofascismo europeo. Ne parliamo tra poco con il sindaco di Cantù, con l'onorevole Emanuele Fiano del Partito Democratico. È giusto o meno dare libertà di parola anche a forze politiche che per qualcuno sono espressione della rivendicazione del fascismo? 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:35 minuti, cari ascoltatori, il numero di telefono per intervenire è 800 24 00 24. Voglio parlare adesso di quello che succede in questi tre giorni a partire da oggi a Cantù, in provincia di Como, dunque siamo in Lombardia, dove c'è da oggi appunto un raduno, Festival Boreal, organizzato da Forza Nuova, che è un partito che si candida alle elezioni, ma che raccontano soprattutto coloro che sono critici per questo raduno, e chi ha autorizzato questo raduno porterà anche da tutta Europa alcune espressioni di movimenti di estrema destra. Si parla di presenza anche di, per esempio, Lazo Toroczai, leader del partito che in Ungheria è accusato di aver rifondato le camicie brune di memoria nazista. E quindi è davvero opportuno, in nome della libertà tutti possono parlare, esprimersi, ma è davvero opportuno dare la parola, concedere uno spazio pubblico, un luogo pubblico a persone che vengono accusate di essere espressione di una destra che ha portato in passato a dittature, ha portato alla morte di milioni di persone? Che ne pensate? Con noi c'è il sindaco di Cantù, Claudio Bizzozzero, che saluto. Buongiorno sindaco e grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno. Saluto anche l'onorevole Emanuele Fiano del Partito Democratico. Buongiorno e ben ritrovato, onorevole Fiano. Buongiorno a voi. Allora sindaco, guardi, lei che ha difeso anche una serie di interviste anche oggi sul Quotidiano Nazionale, dice è giusto e in nome della democrazia e del rispetto della Costituzione che tutti abbiano la possibilità di parlare. Già arrivano delle domande che le giro via SMS, anche di abitanti, Roberto per esempio di Cantù, che dice è un dovere di un sindaco opporsi con ogni mezzo lecito a forze antidemocratiche. Lei che risponde? Che questo signore che ha scritto così ha ragione. Io penso, guardi, glielo dico con tutta la modestia che posso e che riesco, perché io credo di aver sempre ispirato, no, sono certo di aver sempre ispirato la mia vita alla democrazia, e per quel che ho potuto, quando mi è capitato, mi sono sempre opposto con i fatti, dove è possibile, a queste cose che il signor Roberto dice. Ma questo non c'entra nulla col fatto che io abbia autorizzato una richiesta d'utilizzo di uno spazio pubblico. Ma questo perché lei sa che al Comune di Milano è stata negata, in altri posti è stata negata, si parla appunto dell'arrivo di persone anche, non parlo di Forza Nuova, ma anche di persone, espressioni di partiti che esprimono delle idee che certo non solo lei non condividerà, sono anche idee considerate antidemocratiche ormai da decenni in Europa. Ma guardi, io non so sinceramente che cosa abbia effettivamente detto il sindaco di Milano, il collega sindaco di Milano. Noto che spesso delle cose che io dico ai giornali viene data poi una notizia che non sempre corrisponde a quello che io dico, ma questo credo che tutti... Però qua è diretta in radio, quindi può dire... No, ma infatti qui sono molto contento che lei mi abbia dato questa possibilità. Quindi no, questo glielo stavo dicendo perché vorrei potermi confrontare direttamente con il sindaco Pisapia per sapere che cosa effettivamente lui pensa, ma se sto a quello che i giornali hanno riportato, e cioè che è stata giudicata una richiesta che peraltro mi dicono gli organizzatori non esisteva, perché loro mi dicono che hanno presentato questa richiesta solo a noi, quindi è stata una sorta di escusatio non petita, ecco, quella che è avvenuta a Milano. Ma se comunque così fosse stato, avessero richiesto questa stessa cosa che hanno chiesto noi, e il sindaco nella sua veste di sindaco, non di leader politico, avesse negato, io credo che avrebbe fatto una cosa contro la legge e la Costituzione. Ma lei non imbarazza, cioè mettiamola sull'imbarazzo, oltre alla questione del non opporsi, trovarsi di fronte a persone che hanno delle idee che lei stesso dice io ripudio, oggi lei li incontra, se non sbaglio alle 11 andrà a dare il saluto, cosa dirà a loro? Ma perché dovrebbe imbarazzarmi? Mi imbarazzerebbe se mio figlio avesse queste idee, ma questi sono signori che io non conosco, che vengono qui ad esprimere delle opinioni che io non condivido e che hanno chiesto, ai sensi di legge di Costituzione, di usare questo spazio, e io non potevo. Ma guardi, non lo dico solo io mi sono confrontato lungamente col prefetto, col questore, e in punto di legge di Costituzione non potevo opporsi. Stiamo discutendo di una questione dal punto di vista giuridico assolutamente non è chiaro, però guardi sindaco, invece, guardi, possiamo discutere, questo è più opportuno, delle nostre opinioni di coscienza, perché sul punto di diritto dubbi non ve ne sono. Non vi sono. Per esempio, le faccio ascoltare una canzone di un gruppo che si chiama Testudo, che credo suonerà. nella mia vita il fascismo è il mio ideale, quindi fatela finita. Questo gruppo guardi, io non faccio il magistrato. Se cantare una canzone di questo tipo configura quella che in Italia si chiama apologia di fascismo, le forze dell'ordine saranno tenute ad intervenire come di loro competenza. E mi pare che qui molti stiano confondendo i ruoli. Io faccio il sindaco e devo applicare la Costituzione. La Costituzione garantisce a tutti nel nostro Paese, articoli 17 e 21, la libertà di riunione e di espressione del pensiero, qualunque pensiero questo esso sia. Se vi sono visto anche forze politiche che ritengono che Forza Nuova, perché noi abbiamo una richiesta da parte di Forza Nuova, sia un partito illegale, e si rivolgano all'autorità giudiziaria. Se fosse illegale non si potrebbe presentare alle elezioni. Però è interessante, lei ha messo già punti molto interessanti sui quali vorrei sentire il parere dell'onorevole Emanuele Fiano. Onorevole Fiano, a lei che cos'è? È un disturbo personale? Si può mettere sul piano, come dice il sindaco Bizzozzero, della coscienza personale, ma in punta di diritto, dice il sindaco, io non potevo fare nient'altro di quello che ho fatto, e cioè autorizzare questa manifestazione. Lei che ne pensa, Fiano? Ma intanto vorrei sapere qual è l'articolo della Costituzione che obbliga il sindaco a portare il suo saluto a questi neofascisti. Ma questo ha a che fare con la coscienza? In secondo luogo, se posso parlare io, in secondo luogo vorrei sapere qual è l'articolo di legge che lo obbliga a dargli uno spazio pubblico, perché finché si parla di spazio privato, come è successo a Milano recentemente, prima dell'estate, per un concerto che chiamano Nazi Rock, insomma, per sintesi, che si è svolto in un luogo privato, ovviamente gli articoli di legge di Costituzione che cita il sindaco li conosciamo bene, e quindi si è svolto in un luogo privato con ingresso filtrato solo per chi doveva entrare, chi era iscritto, non so, a quell'organizzazione, e quindi in quel caso vigono le cose che ha detto il sindaco. Ma io, diciamo, in questo caso mi ha molto colpito l'idea del sindaco di portare il suo saluto, che è un qualcosa che non c'entra, se sono vere le notizie di stampa che leggo, ma mi pare che l'abbia riportato. Sì, credo, oggi alle 11 lo farà. Questo trovo che sia un gesto che non c'entra nulla con tutte le belle frasi romantiche che ha detto il sindaco, che l'importante è che, sono convinto che lo pensi, che il suo figlio non abbia le stesse idee di questi signori, ma portare il sindaco è un fatto in più che nessuna Costituzione, nessuna legge obbligava il signor Bizzozzero a fare. In secondo luogo, io spero, ma se non l'ha fatto lo invito a farlo, anche proprio per evitarli questo incontro delle ore 11, magari di guardarsi quel film di Claudio Lazzaro, Nazi Rock, che racconta proprio di un campo d'azione di Forza Nuova del 2006, con concerti, merchandising, banchetti, comizi, esattamente, grosso modo, sul modello di tutte le iniziative che si sono svolte dopo, dove c'era un bello striscione con scritto più nazifascismo. Lo invito a conoscere le risposte che Roberto Fiore ha dato più volte, per esempio sulle questioni sulle questioni delle camere a gas, della Shoah, le maniere in cui evasivamente ha risposto a una questione che riguarda gli sì, però la questione Forza Nuova, onorevole Fiano, è una questione che laddove sono democraticamente accettate alle elezioni, allora non si può dire nulla. Quindi si può andare a salutare. Io parlo di quell'aspetto che mi ha Ma quello del saluto è molto, molto interessante. Il sindaco, lei conferma, andrà alle 11, non è che ci ha ripensato, li incontrerà? Sindaco. Ma vorrei, se posso, spiegarlo. Sì, certo, ma intanto lo conferma, cioè non è che ha dei pensamenti, andrà. Confermo che andrò lì, e poi che questo sia un saluto, adesso poi giudicherete quando vi spiegherò che cosa farò. Me lo dica. Allora, intanto però vorrei rispondere alle domande che l'onorevole Fiano mi sta ponendo. Mi ha chiesto qual è la norma di legge che mi obbliga a dare uno spazio pubblico. Sì. Gli rispondo che questa domanda potrebbe girarla innanzitutto al questore e al prefetto di Como. E loro credo che potrebbero rispondere in punto di diritto molto meglio di quanto faccio io. Però sindaco, mi scusi, gli aspetti legali ormai mettiamoli un attimo da parte, no, poi se vuole li approfondiamo, però piano, ci dica cosa farà oggi alle 11. Mi consenta, però se una persona mi fa una domanda io uso rispondere. Sì. Lui mi ha chiesto di nuovo sul piano giuridico che cosa mi obbliga. Io gli rispondo, mi obbliga la Costituzione, tanto più che quella è una richiesta e paradossalmente proprio i sensi di Costituzione vale doppio, perché c'è il preciso riferimento alle, nella Costituzione, alle riunioni di tipo politico, vale doppio quella richiesta, perché è di una forza politica che non solo si presenta alle elezioni politiche, non mi pare che il partito di cui fa parte Fiano l'abbia mai impedito, ma si presenta nella nostra città anche alle elezioni. Sì, e questo l'abbiamo detto, siccome Forza Nuova si può, no, si può presentare. Però, siccome riprendono continuamente gli stessi temi, mi tocca tutte le volte. No, ma è chiaro. Allora però, sindaco, adesso siccome... Mi interessa molto di più la questione di coscienza. Ecco, siccome ho le informazioni sul traffico, è per quello che io volevo anticipare, lei magari sui tempi radiofonici, io ho il clock davanti, allora facciamo così, andiamo alle informazioni sul traffico e tra un minuto riprendiamo e ci spiega cosa farà alle 11. Allora, eccoci qua con l'onorevole Emanuele Fiano, con Claudio Bizzozzero, che è il sindaco di Cantù. Sindaco, ci sveli che farà oggi alle 11, quando incontrerà queste persone. Ma no, intanto le dico che io vado lì avendo fatto una scelta di coscienza personale e collettiva, perché io ho portato la questione sia dell'autorizzazione che della scelta mia personale di andare lì all'attenzione non solo del mio gruppo consigliare, ma dell'intera mia lista civica, della nostra assemblea. E devo dire che la decisione è stata unanime, con questo voglio togliermi responsabilità, che ho, perché ho fatto una scelta anche personale. E le dico che se la mia assemblea mi avesse detto che tutto questo era sbagliato, io non mi sarei sarebbe dimesso. Si sarebbe dimesso. Assolutamente, perché ritengo di aver fatto la cosa in coscienza prima che in punto di Costituzione, assolutamente più giusta che potessi fare. Che cosa farò quando andrò lì oggi? Ripeterò le stesse cose che sto ripetendo da settimane, con qualche cosa in più, perché io mi sono fermato da settimane, no, da giorni, mi sono fermato fin qui al punto di diritto, entrerò più sul piano della coscienza. Guardi, io cerco molto faticosamente, insegno nelle scuole di diritti umani e cerco da tanti anni molto faticosamente, perché la mia indole è un'indole che si è formata, diciamo, su... anche in ambiti politici, ideologici, in cui la non violenza non è che sia molto nota. E allora ho fatto anche molta fatica, continuo a fare molta fatica nel cercare di ispirare i miei comportamenti prima che i miei pensieri alla non violenza. Però in questo caso io sono assolutamente in coscienza convinto che sto facendo la prima vera grande azione non violenta della mia vita, ma glielo dico, guardi, cioè andare a dire a queste persone: io non vorrò mai, per esempio, che mio figlio fosse come voi. Ecco. Guardi, però guardi, se, però le dico di più, ma guardi, dico di più. So che ci sono delle scelte che uno può prendere se si ispira a non violenza che possono scandalizzare molti, però che cosa c'è di più scandaloso di una lettera che il Mahatma Gandhi scrisse ad Adolf Hitler? E che comincia così: caro amico. E poi continua, le dico così perché io considero tutta l'umanità amica. Onorevole Fiano, le basta, diciamo, come presa di posizione, cioè dire, guardare negli occhi queste persone e dire quello che uno pensa? Cosa? Ma io non sono, posso essere interessato personalmente alla coscienza, al pensiero, alle idee del sindaco Bizzozzero, ma qui non parliamo delle sue idee personali, parliamo del suo ruolo, come del mio o di quello degli esponenti di quel movimento di Forza Nuova, del loro ruolo o del nostro ruolo pubblico. Non si parla della coscienza privata. Quindi stiamo analizzando un fatto. Io continuo a dire che non c'è nessun obbligo di Costituzione, né nell'articolo 17 né nell'articolo 21 per dare uno spazio pubblico. C'è l'obbligo di garantire la libertà di riunirsi, di manifestare per esprimere le proprie idee liberamente, così come garantiscono sia per l'aspetto della libertà di riunione l'articolo 17, sia per l'aspetto dell'articolo 21, finché qualcuno non dimostri ovviamente che quelle idee contravvengono la legge e la Costituzione. Però su questo, onorevole Fiano, effettivamente questura e questore hanno dato l'ok, quindi non credo che il sindaco abbia potuto fare... No, ma non facciamo finta di non capire le parole. Sì. Hanno dato l'ok dopo che il sindaco ha concesso uno spazio pubblico. È ovvio che la questura e il prefetto intervengono solo se ci sono problemi di ordine pubblico, oppure dopo la magistratura, se ex post, verranno riscontrati. Quindi lei dice che il sindaco poteva, come gesto anche politico, diciamo, non avendo alcun obbligo, porta una delibera al consiglio comunale, poi se c'è le forze politiche, la maggioranza del suo consiglio comunale, come immagino sarebbe stato, perché dice che la lista che lo esprime come sindaco ha deciso questa cosa, avendo deciso la concessione di uno spazio pubblico è un atto amministrativo, non è automatico. No, non solo, ha detto che se l'avessero rifiutata si sarebbe dimesso addirittura. Comunque, su questo abbiamo capito, lui pensa che sia giusto dargliele, io penso che non sia giusto dargliele, mentre sono convinto che la Costituzione garantisca il diritto per chi ha liberamente associato il partito a svolgere le proprie manifestazioni, ma non è obbligatorio questo l'uso pubblico. Questo secondo, qui c'è un grande dibattito che non abbiamo mai concluso, perché si ritiene che la Costituzione permetta l'espressione di qualunque idea, ma non è così, perché ci sono delle leggi italiane, penso alla legge Mancino, che dicono che non qualunque idea è liberamente esprimibile. Per esempio, le idee che spingono la discriminazione, le idee di violenza, le idee di intolleranza, non sono liberamente esprimibili. Questo non lo dico, non sto giudicando gli atti fin qui svolti dal sindaco, dico in generale. No, ma in generale, ma anche come anche la canzone che inneggia il fascismo, lei sindaco dice vabbè, se ci sono le forze dell'ordine, se sarà una violazione della legge che proibisce per Costituzione anche di inneggiare il partito fascista, le forze dell'ordine, nel caso i magistrati, interverranno poi. Fatemi sentire qualche ascoltatore. Salvatore dalla provincia di Roma, buongiorno Salvatore. Sì, buongiorno agli ascoltatori e ai suoi ospiti. Volevo chiedere al sindaco qualche domanda. Primo punto, ma il sindaco si rende conto che nella storia nazismo e fascismo hanno utilizzato proprio gli spazi concessi loro dalla democrazia per prendere il potere e poi cancellarlo, come ai tempi della Repubblica di Weimar? Utilizzavano le leggi democratiche che gli permettevano di esprimersi per poi raggiungere il potere e schiacciare gli altri, punto primo. Sì. Punto secondo. Io mi rendo conto, Voltaire l'abbiamo letto tutti quanti, mi batterò affinché le tue idee vengano espresse, Gandhi, d'accordo, però dividiamo i punti, perché quelle sono espressioni di un sentire personale, qui si parla di un'attività pubblica e di un'opportunità politica, quindi per carità di Dio, ogni singola espressione del sentimento va bene, ma qui parliamo di un rappresentante dell'istituzione. Sì, va bene, è molto chiaro. Ma siamo assolutamente, mi scusi, mi faccio terminare, sì. Ma siamo assolutamente sicuri che qualunque espressione la Costituzione la permette. No, ma infatti è questo che ha detto, l'ho appena detto l'onorevole Fiano. Sindaco, risponda soprattutto al punto, diciamo, che dice l'ascoltatore, anche il nazismo utilizzò spazi democratici per poi prendere il potere e fare qualcosa di antidemocratico. Intanto non siamo nello stesso periodo. No, fortunatamente storico, no. Fortunatamente. Guardi, in quello stesso spazio Forza Nuova organizza la sua festa da anni, perché noi abbiamo avuto una richiesta di autorizzazione per utilizzare lo spazio per la festa di Forza Nuova, che come le dico a un gruppo qua a Cantù. Le dico di più, questa richiesta risale a maggio. E nel nostro comune, per decisione dell'amministrazione che ci ha preceduto, ma sulla quale noi siamo d'accordo, assolutamente d'accordo, quindi io adesso non voglio scaricare responsabilità sugli uffici, anzi me ne assumo poi di tutto quello che ne è venuto a seguire, perché avrei potuto intervenire successivamente, non l'ho fatto. Credo che sia stata una scelta giusta quella di definire come procedura per le richieste di utilizzo di spazi pubblici, in particolare quello spazio pubblico che è spesso deputato alla realizzazione di feste, sì, di forze politiche, la non necessità di passare in giunta. Viene la festa autorizzata, questa è quella degli altri partiti che utilizzano quello spazio, verificato non quello che lì uno va a dire, ma verificato che ci siano delle condizioni di rispetto delle norme tecniche che riguardano la gestione di quello spazio dagli uffici. Ma questo credo che sia giusto, noi continueremo a fare così, soprattutto quando la richiesta è fatta da forze, sì, politiche. Le leggo alcune cose, guardi, un amico sindaco, leggere no, perché altrimenti purtroppo sforo, i tempi in radio sono questi, sì, qualcuno può dire antidemocratici, ma durissimi. Sindaco, io mi devo fermare qui, la ringrazio. Claudio Bizzozzo del sindaco di Cantù, così come l'onorevole Emanuele Fiano del Partito Democratico. Potete ascoltare tutto sul sito radio24.it e noi ci ritroviamo, grazie a Miriam Lucchetti in redazione, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, il nostro alpino Peter Bescapè, ci ritroviamo lunedì 6:30. Il nostro Parlamento, la Camera che si accapiglia sulla riforma costituzionale e il Senato che si accapiglia sulla decadenza di Berlusconi dovrebbero stare su Marte, perché non hanno la più pallida idea di cosa sia la vita dei cittadini, e quando dicono la stabilità del governo per il popolo non sanno di quale popolo stanno parlando. Dovrebbero andare tutti una settimana a lavorare in un call center con un contratto CocoPro e il capo che gli cronometra le telefonate, e dovrebbero mandare tutti i loro figli alla scuola pubblica ad accapigliarsi con la preside perché non c'è la lavagna in classe, perché alla prima riunione ci dicono, sapete cosa ci dicono? Portate la carta igienica. Questo è il paese reale e tutto il resto, perdonatemi, sono fandonie. Mattino.